city. La città che ti fotte senza toglierti i vestiti. Sangue in bianco e nero, alla pelle lucosi. Le parole sono un virus, la mano nucleosi. Sono parassiti, gli abitanti a parassiti. Dai quartieri ricchi e casolari coi graffiti. Dove il medio borghese, coi suoi abiti firmati, getta fango e benzina nelle schiene agli immigrati. Accende un sorriso, accende poi un cerino. Poi riprende tutto con il suo telefonino. Il prete dice messa, poi si scopre una bambina. Il prete si confessa e torna tutto come prima. Qua a una certa ora una madre che ha sei figli, per mandarli a scuola succhia carte i suoi navigli. Un'altra notte tra le vie di parassiti, tra lo squallore dei feriti e il forte odore di vernici. Avanti, vieni giù, ti aspettiamo, va con noi a parassiti. Mezzo fango, cuori stanchi, con pie feriti. Adesso corri, c'è sembra nebbia, parassiti nascosti tra le ombre come se non fossimo mai esistiti. Parassiti sono passi carichi ambiti, potenti e i più ricchi vengono subito uccisi. Nella fossa comune si scava sempre più a fondo, come un lombrico cerco humus per l'inverno. Nelle fondamenta della terra porto la mia prole, in fuga da veleni fatti di parole. La nebbia stringe il collo alla città. Mi unisco per una sigaretta, lontano dalle autorità. Il coprifuoco è molto vicino. Il grido di un bambino piango, non sono in grado di aiutarlo. Ha perso i genitori, respiratori non sono bastati. Ormai ci ho fatto il callo a sti morti ammazzati. Focolai di fallimenti in ogni vicolo e chimico. Il cibo che ci danno resta tossico. Solo un raggio di sole scalda il terreno. Tutti i colori sono morti, o bianco o nero. Avanti, vieni giù, ti aspettiamo, va con noi a parassiti. Mezzo fango, cuori stanchi, con pie feriti. Adesso corri, c'è sembra nebbia, parassiti nascosti tra le ombre come se non fossimo mai esistiti. A fari spenti nelle vie di questa notte, tra facciate in bianco e nere, locali pieni di mignote. Qua tutto sembra surreale, una città fantasma, illegale, praticamente il male. Polizia corrotta, gioca poker, punta soldi e vite come Hitler. Piede sulla testa del serpente Snaker. Risse nei vicoli, alti tassi alcolici, spaccan pure schiene, Undertaker. Diretto nella città vecchia dove tutto mi rispecchia. Guardiani e killer in vedetta, si mandano segnali e so che qualcuno lì mi aspetta. Ma non ho fretta, tengo la mia testa. Arrivo, scendo dall'auto, sguardo basso, ombre mi circondano e poi l'assalto. Qualcuno mi riconosce, urla il mio nome. Sarge, bentornato nella tua prigione. Avanti, vieni giù, ti aspettiamo, va con noi a parassiti. Mezzo fango, cuori stanchi, con pie feriti. Adesso corri, c'è sembra nebbia, parassiti nascosti tra le ombre come se non fossimo mai esistiti. Giù, a parassiti, fango, cuori, muri sporchi. Zero sorrisi, adesso corri tra la nebbia. A parassiti ci nascondiamo, tanto noi non siamo mai esistiti.